Ciao Nicola, Marco da questa parte. Mi sono mezzo svegliato dalla pennichella, però mezzo, un occhio è ancora chiuso. Sì, praticamente sì. È che stamattina siamo usciti con mamma, l'ho fatto fare un bel giro, abbiamo comprato roba. Insomma, un po' stancante. Alla fine, sai, c'era un po' di caldo, non tantissimo, però poi, dopo aver pranzato, mi sono abbandonato a pelle d'orso sul letto. E così stavo andando in cucina a prendere l'acqua, ho provato a mandare quel bip, ho detto vediamo se c'è qualcuno per un saluto. Ieri è stato un delirio, ieri siamo stati 3 ore e mezza in radio, alla fine ero distrutto, avevo anche mal di gola. E poi sai cos'è? Qua o stiamo settimane o mesi che non ci sentiamo, oppure poi il delirio è tipo 1 o 2 giorni tutta la sera in radio, capito? E vabbè, comunque vuol dire che c'era la voglia. Poi sono entrate tante persone a salutare, insomma. E adesso forse mi prendo un gelato, vediamo un po'. O qualcosa di fresco che mi apra anche l'altro occhio, ecco. Ascolta Nico, ti volevo chiedere, quindi voi per quella storia del 110 non siete riusciti a iniziare o avevate già iniziato e poi si era bloccato tutto? No, per sapere se avevate avuto sanzioni o altri casini simili. Ah vabbè, però non avete, ecco, non ci avete rimesso niente, ne parlate quello io. Ma tu come mai poi hai deciso di non piazzare antenna sul tetto? Forse c'erano rimasti malumori appunto per il 110 mancato o altri motivi. Pensa che qua, vabbè, la roba inerente al 110 è finita, però per l'antenna non ha cambiato nulla, perché il gabbiotto lo dobbiamo ancora fare, che va intonacato e impermeabilizzato e basta, no? Però quella è una cosa che paghiamo di tasca. Però per l'antenna non hanno passato cavo in canalette, nulla, a dire la verità. Ti dirò che avrei gradito quasi che lo dipingessero di giallo come il palazzo, in modo che si vedesse meno, perché tanto anche se lo pitturi non gli fa niente al cavo. Invece qua fanno, ma non chiedono nemmeno, non hanno chiesto nulla. Se non gli avrei detto, certo, se volete dipingete anche il cavo, almeno si vede ancora meno, per quanto sia all'interno del palazzo, cioè non è in facciata, è dalla parte interna, ecco. Sì, è vero, poi qua anche finiti i lavori questo ponteggio tardava a essere tolto, non si capiva di chi fosse il ponteggio, perché la prima impresa ha fatto un pasticcio e sono spariti anche soldi, anche tra soci si sono scannati, insomma un pasticcio, guarda. Poi è intervenuta la seconda impresa, che però andava a rilento perché si aveva 2 muratori o 3. Allora si sono buriati e è intervenuta la terza impresa, però come sempre la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Per fortuna comunque ne siamo usciti almeno da questa parte, poi ripeto, chi più chi meno, chi è scontento per una cosa, chi è scontento per l'altra, pazienza dai, ma almeno c'è, il colore ce l'hanno imposto, nonostante fosse stato deliberato un colore più sobrio, questo colore c'è stato rifilato praticamente, penso dalla penultima o ultima impresa, ce l'avranno avuto come avanzi di magazzino e ce lo siamo dovuti sorbire, e anche quello non mi pare giusto. Vai Nico. Sì, esatto, comunque appunto a qualcuno sono state tolte cose, cioè non date, diciamo, cose promesse, a qualcuno non hanno messo gli infissi come da noi, nonostante ci avessero sfasciato, tagliato con la mola le guide delle serrande, no? Poi glielo vado a dire, ho detto cosa state facendo? Qua in fissi non ce ne vanno, dice come non ce ne vanno? E io ho detto buonanotte. Insomma qualcun altro stesso non li hanno dati, poi sono spariti anche dal budget i portoncini coi bentati, e poi a qualcuno li hanno messo anche in fissi con il bordo alto alto, che praticamente prendi una strampata ogni volta che devi uscire fuori in terrazzino, insomma. chi più chi meno un po' tutti scontenti, poi che ne so, chi aveva mi pare tre condizionatori o come era la storia, più di due non, lo Stato non gliene ha pagati, se uno ne aveva tre gliene hanno tolti e ne hanno mancettito due, così ho capito io, eh. Insomma, tutta l'italiana, diciamo, da. Tutti bene, ci siamo, noi ci siamo. Buonasera, buonasera anche Antonello, che ha detto qualcosa, ovviamente non si è capito cosa ha detto. Scusa Antonello, sono ancora a mezzo, ma ho mental cervello addormentato. Sì, poi che altro? Dico, ecco, i pannelli solari non li hanno voluti, almeno quando se ne è parlato all'inizio, perché il terrazzo, per meglio dire i terrazzi, da noi non è tetto, è terrazzo, no? Poi col parapetto, no? Sono di due proprietari diversi. Uno non ne voleva sapere, non voleva roba strana sul terrazzo, l'altro si presume pure. Poi non ne ho più saputo niente, quindi pannelli solari niente. Se poi sai così, noi non è che abbiamo dei garage condominiali, non ce li abbiamo, quindi cioè, per cosa le avremmo messi? Per altri scopi, sì, però non per le macchine elettriche, che poi sono pure pericolose. Hai visto che quando prende fuoco distrugge palazzine, coso, fanno un macello e i pompieri manco riescono a spegnerle, perché continuano a bruciare, peggio del fosforo bianco quelle batterie sono. Vai avanti Antonio, buonasera. Sì, ciao, buonasera, buonasera. Sto vando il mio, il codex, il 2009, tu sanno, come mi ascolti? Bene, bene, perché era un po' che non lo usavo, Sì, a parte l'eco che è molto ripetitivo, funziona. Ascolta, e poi quel microfono che hai fatto con la persona, l'ha provato da casa oppure no? No, non esce, no. Cioè non esce, non funziona, perché c'ha attacchi diversi, infatti devi portare l'apparecchio e così glielo collego qua. Ma infatti conveniva che ti portasse direttamente l'apparecchio e il microfono e glielo facevi in modo più immediato, ecco, va bene. Ehi, riprendi Nicola, io vado a prendere la bottiglia a bere, un attimino, Copiato Nicola, riprendi? Oh, ecco fatto. Ma come mai bianco, non vi sentite? Nemmeno oggi? Eccomi. Ok. E quindi Antone, non vi sentite, dai, purtroppo c'è sempre questo ostacolo qua, basterebbe anche una Venom, guarda, momentanea, tanto è stato, una Venom sul tetto sicuramente arriverebbe non solo a Sassari, ma molto oltre Sassari, dai. Basta anche una tela di macchina, con una saffetta ben piazzata, e vedrà che c'è lo stesso, e Giuseppe Leoncino, gli ho messo il tubo 2001 da casa sua, e esce tranquillo, esce. Non c'è bisogno di metterci un'antenna grande, no? Gli mette un paletto, li mette da 2 metri, 3 metri ed è fatto. Allora, qui sei salito appena, c'è un'attacca in più, guarda, non riesco a vedere i numeri perché sono veramente microscopici, però sei salito di un'attacca, come potrebbe essere da un 8 a 9, da 8 a 9, ecco, una cosa del genere. Però il problema è che Antonello non ti sente, tu non senti lui, credo, no, tuttora? Antone, stai sempre pompando, pompa oggi, almeno ti sente Nicola, certo, poi tu non senti lui, vabbè. E pompando, sto con la pompare, sto usando l'apparecchio normale, l'ho acceso perché era un tempo fermo, infatti appena l'ho acceso rimane baspetto, ho dovuto giostrare appena appena con la manopola dell'accensione e poi si è riacceso. C'è più di 20 anni questo apparecchio, quindi. E sta ancora andando, meno male. Il giorno che si spegne, ciao. E che apparato hai detto? Il 2009, quello modello vecchio che ho io, il primo che ho comprato. Ah, ok. Va bene. Ma quello con la mascherina, una certa mascherina diversa, diciamo. Sì, la mascherina vera dell'omologato c'è. Sì, io volevo essere più discreto, tu sempre bocca di scandalo, sì, ho capito, e infatti alludevo a quello, dai. C'è quella lì, e c'è anche la mascherina del 4005 conservata, quindi se ti dovesse capitare che magari c'hai un torno del 4005, c'è la mascherina graffiata, me lo dici, ti do la mascherina da applicargli, quella nuova, ti metti due gocce di coso sopra la vecchia, di Atac, e c'è la mascherina nuova, cioè, ce l'ho conservata. Eia, e sai cosa ti volevo dire, Antonè? Che l'altro giorno mi aveva chiamato il figlio di Pelattè, no? Siccome devono fare dei servizi particolari, no? Sorveglianza, potremmo dire. E voleva che gli consigliassi qualche portatile molto economico. Ma tipo i Brondi, è proprio roba semplice, solo che i Brondi se li fanno pagare, anche se li trovi da un euro quei negozi, te li fanno pagare un bel 50-60 euro la coppia. E siccome non gli volevo consigliare però nemmeno i Bao Bao, gli 888, stamattina eravamo da Muraia con mamma, e c'erano, gli 888 ce li hanno sempre, single costa 17 euro mi pare, o 17,90 così, doppio, diciamo, o risparmi qualcosina o è pari comunque, c'è la confezione singola e doppia, però quelli vedi sono amatoriali, non omologati, e appena li compri li trasmettono sui 4,6,2, insomma roba ministeriale che non va bene. E dove volevo arrivare? Però c'erano anche questi cosiddetti Baofeng, che altri non sono che i Retevis super economici, però escono, guarda, benissimo di radio, hanno una bella ricezione, hanno i subtoni, quelli sarebbero stati perfetti. Non le avevo mai viste da Muraia, li hanno portate e costano 19 euro la coppia. Se vuoi sapere a cosa somiglia, ti ricorda il primo Brondi che avevano fatto, che aveva il tasto PTP tondo ed era frontale, cioè il tasto non era di lato ma frontale all'apparato. E siccome avevano un certo peso, presumo che ti dessero anche le batterie ricaricabili assieme, però senza il caricabatterie che va comprato a parte, che io l'avevo trovato da AliExpress. Ecco, io gli stessi marcati Retevis li avevo comprati da AliExpress, ma li avevo pagati la metà. Cioè anziché 19 la coppia, mi pare addirittura 9,90 o 11,90 la coppia. La coppia a me. Sì, guarda che Baofeng, ce ne sono due modelli da Muraia, c'è il modello uno con i trucchi, se hai notato, e ci metti le batterie, quelle da 1,5, ce ne vogliono 3, e c'è la coppia, vendono. E poi io ho comprato, c'è un pacco nuovo, ne ho comprato due, di quello che stai dicendo tu, sono ancora, ancora il pacco in cellofanato, non è neanche aperto. Di quelli 888, perché uno l'ho perso, hai capito? Quando c'è, ero con quella moto lì, evidentemente ho preso qualche fosso e siccome l'ha lanciato alla cinghia, evidentemente è uscito, quando sono entrato a casa mi sono accorto che non ce l'avevo più, e c'è caduto. E quindi mi è rimasto uno, gli 888, poi mi sono pigliato altri due. E sono ancora in cellofanato dentro la scatola, figurati tu, non ho neanche aperta nulla. Quando l'ho preso 30 euro li ho pagati, gli 888. Naturalmente la frequenza 462-250. Dimmi Nicola, bene come prima, cioè quando avevi aumentato, sempre intorno a 9, poi qua è molto relativo il segnale, ricordati che è uno smitter. Chiamiamolo smitter, da. Ma che? Antonelle, e allora Nicola ti riceve con quell'antenna lì, però tu ne ricevi lui, e quindi niente da fare ancora. Ti volevo dire, Nicola, lì basterebbe addirittura una Venom da 30-40 euro, giusto per la stagione estiva. E sul tetto farebbe faville, arriveresti Sorso, Porto Torres, anche Alghero volendo. Vabbè, con pochi watt magari in Alghero no, dipende dalla posizione tua, dalla schermatura. Comunque Sassari la fai tutta, Sassari dintorni. Va bene. Comunque sì, Antonè, confermo, è quello lì. Sono marcati Baofeng, sono con le batterie mini stilo. Però, c'è un però, siccome io so che da AliExpress esistono due modelli identici ma due versioni, una ha 8 canali, mezzo watt, GMR 446, l'altra versione ha più canali ed è GMRS o FRS, non mi ricordo, e siamo sempre lì, c'è banda americana che è sui 462, e quindi è lì sulla scatola, non c'era scritto da nessuna parte che versione era. Uno dice si presume che sia quella 8 canale europea, magari sì, ma magari poi li vai a comprare e non va bene per l'Italia, che poi uno mi hanno una potenza talmente ridotta che se li usa nessuno se ne accorge, però potevano almeno scriverlo, non c'è scritto né davanti né dietro nel blister né sotto, non c'è scritto ricetrasmittenti, generico, ma molto generico, capito? Ho fatto anche la foto, poi gliela mando al figlio di Ivan, se è ancora interessato, perché a loro lo servivano per sabato, però poi loro vigilanza ne faranno in tante altre occasioni, quindi se quelli sono validi li può comprare, però poi lui deve avere anche dei caricabatterie da tavolo, no? Da quelli 4 posti, 6 posti, 8 posti, se no non si può caricare le batterie, ecco. Ho capito. Ah, giù compreso. No, quello che ho io è la... Io ho le... Mi è messo l'881 e fa il 446, poi mi è messo l'95 del Plus che ce l'ho qui, l'altro c'era Giovanna giù a... c'era mio cognato a casa sua, si capito? Quindi... E poi c'ho quelli due che ho preso nuovi e sono ancora scatolati, non ho neanche aperti nulla, non ho... li lascio così, tanto mi sono voluto per fare antenne, no? Non me ne frega niente di mettere di fargli la modifica, c'è troppa gente adesso in TMR, è diventato un troiaio, capito? Però la gente non sa che i canali da 8 sono diventati 16, cioè tutti si prendono i portatili da 8 canali, magari proprio quelli economici, e i canali sono diventati 16, analogici. Che poi una parte di questi canali si sovrapponeva, non sovrapponeva, ci sono sempre alcuni kHz di distanza, alla famosa banda digital PMR, capito? Diciamo, dopo gli 8 canali ci sono sia i restanti canali normali, analogici, e più gli altri canali famosi digitali che noi ben conosciamo, che abbiamo usato, eccetera. Ascolta Antonio, ma tu ce l'hai o no WhatsApp, Telegram? Cioè se ti devo mandare una foto, come faccio? WhatsApp ce l'ho io. Ho subito il numero, altra 71, già lo sai, 162, 4... Allora, 371, 162, 4561 mi sembra che è, non me ne ricordo manco io adesso. Ce l'ho WhatsApp comunque, dove sta facendo? Ciao a tutti e benvenuti alla... Ah, fa il culo, questo telefono funziona a ASO, ragazzi. Ce l'ho io, dove sta facendo tu il numero di telefono dell'altro telefono? C'è WhatsApp, cioè, mi hai sempre mandato la roba lì. Eccomi, un attimino che proviamo a mandare sta foto, vediamo. Quindi capito Nico, anche quando si comprano queste cose che sembrano radiogiocattoli o PMN normali dai cinesi qua, bisogna sempre fare attenzione alla versione, che non sia quella americana, che usa frequenze che per loro sono di libero uso, però per noi cadono su, proprio assegnate al Ministero degli Interni proprio. Adesso ho sentito, Santiago 5. Santiago 5, perché non provate in FM per vedere se lo tiri fuori meglio? Vogliamo tentare? No, con questo qua non va bene, con questo apparecchio, ho problemi in FM, ecco perché l'ho piazzato. Domani lo voglio sistemare, avrei scoprire dove cazzo è il problema, me lo fa solo in ricezione. In trasmissione esce bene in FM, in ricezione invece tu tutto sfasato, sente, boh. Devo controllare a vedere qual è il componente che sta rompendo le palle. Deve essere qualche trim, è saltato. Sì, ti ascolto adesso, Santiago 5. Adesso non ho capito cosa ha detto. C'è un QRM, cazzo, mi aveva messo le cuffiette, cazzo. Aspetta, a vedere, le cuffie. Mi è arrivato il massaggio. Aspetta, metto le cuffie, a vedere. Cinico, ho notato che in quest'ultimo passaggio si è arrivato anche 9 più, cioè qualcosina più del 9. Hai detto che hai fatto, così hai fatto una massa aggiuntiva? L'ha attaccata alla caldaia, a quanto ho capito io. Sì, al rivestimento della caldaia. Ha attaccato un'antenna veicolare a base magnetica e riesce a guadagnare qualcosina in più. È logico, se attacca la caldaia è logico che la caldaia fa la massa e esce meglio. Quindi c'è la magnetica, c'è. Allora, già va bene, dovrebbe mia che se c'è un terrazzino si fa una sopra la ringhiera, non lo so, si compra un barilotto, si allunga il cavo e almeno esce. Cerca di la magnetica vuole arrangiare per fare il ferro, perché se non attacchi nel ferro non esce, capito? Rischi di bruciare il baracchino. Comunque ti sento adesso. Segnale di 5, la radio è 1, 1 e mezzo, però già ti ascolto, nonostante che c'è la parapela di QRM. Questo barattino qua è l'unico che è mezzo sordo, insieme al Connex 4000. Se attacco il cavolo, manco ti ascolto. Antonè, il tuo QTH approssimativo vabbè, tanto lo sanno tutti, no? Via, diglielo tu, da. Io sono di fronte al Sanatorio Conte, via va da basso. Tu purtroppo sei in quella specie di fosso, sì. Se riuscivi a trovare una zona aperta con la... anzi, andrebbe anche lì dove c'è la caldaia. L'unica cosa è... se c'è la caldaia esternale poi c'è il terrazzino, quindi dico bene, comprate una staffa con un paletto e ti sali la maglia, ti fai un basamento di ferro, ti fai fare un fabbro e lo piazzi nel palo, non ci vuole molto l'antenna, la sollevi di 2 metri, non è come esci meglio. Ti copia a momenti, un po' ti copia, un po' no. Io, allora, questo smitter sei quasi fondo scala, che però lo sai che non fa testo, perché dopo il 9 c'è un'attacca e sarebbe il fondo scala, però lampeggia, capito? Si accende e spegne, quindi è un 9 più, oltre il 9. Sì, sì, è già qualcosa, è già qualcosa. Ascolta, poi Antonello, l'hai vista la foto? Ecco, quelli là, Baofeng, come li chiamano? GT3, PT3, BF3, aspetta. Sì, allora, Baofeng, bravo, Foxtrot, Tango 3, ecco. Però c'è scritto, molto generico, Walkie, Talkie, Set. E sotto c'è scritto containing 2 walkie-talkie, cioè contiene 2 walkie-talkie. C'è persino il bollino, c'è a destra, il vero bollino c'è, non quello cinese, quello vero. Però anche dietro, a parte che il blister, Antonio, è sporco e un po' si vede male, giri dietro lo stesso, non dice se è la versione 8 canale in mezzo watt, c'è un foglietto dentro la base, però lì dovevo aprire e rompere la confezione, e se mi vede il cinese guai. Ecco, io ce li ho uguali, marcati dei Tevis, identici, 2 neri e 2 gialli ne ho. Quelli gialli sono carinissimi, da usare tipo estate, non so, per parlare da una parte all'altra della spiaggia, roba del genere. Ho capito, già sono questi, già quelli che ho visto io, infatti non li ho presi, sono proprio un Giuseppe Leoncino, quando l'ho visto ha giocato, cazzo, questi sono usciti, questi portati, mi ha fatto perché non ti prendi quelli Antonelli? Ma ho detto con quelli non riesco a guardarlo qua, gli ho detto. Se prendo, ho detto gli 888 e tanto per quello che li uso solo per fare la questione delle antenne, se faccio qualche antenna, no? Poi vabbè, il PMR ce l'ho, io ne è rimasto uno di quelli 888, poi ci ho gli altri due, il V5 e il Q+, già basta, ne avanzano, capito? Cosa ne faccio di altri 6, non ne faccio niente. Quindi perché c'è un piccino dirigente a casa in coso, in PMR, hanno per fatto anche un ponte orario, no? Un ponte orario, c'è non so, deve essere qualche cosa di vigilanza sul canale 4, poi ci sono quelli che lavorano con carbone, tutto un casino è diventato. Senti, tutti i canali pieni, tutti i giorni, tranne che il sabato domenica parte i bambini perché hanno i blondi. Quelli ho visto che escono bene i blondi, evidentemente hanno aumentato i watt, i primi che ho usato io facevano schifo, almeno quelli che lo facevano adesso ci avranno preso per watt, una cosa del genere, ma pompano bene. Sì, comunque sì, molto generico. Ah, comunque questi hanno una modulazione buona. Guarda, se tu devi fare antennistica, cioè da dentro al tetto, piazzare un'antenna, fare piccoli percorsi, vanno bene. O comunque in luoghi aperti, guarda che comunque riesce a comunicare a distanza, non saranno. Certo, grazie. Se prendi l'888 c'ha 2 watt grazie al cavolo che fai più chilometri, però non è tanto legale, anzi non lo è affatto, ecco. Sono carini. Poi io ho questi qua, dalla C8 watt, il caricabatterie doppio, che proprio è delicato, è particolare, c'è un ingresso tipo USB e 2 uscitine a spinotto che tu inserisci sopra, dove si possono collegare anche le cuffie. Non solo, avevo trovato anche le cuffie e microfonino, proprio per questi apparatini, che i cinesi qua a Sassari non vendono. Adesso non trovo più niente, chissà dove è finito il caricabatterie, le cuffie, che tanto non servono le cuffie, ti occupo un po'. Però quando li usi nudi e crudi hanno una bella modulazione. Naturalmente però devi parlare sempre esclusivamente con veri PMR, perché se poco parli con un portatile che ha la deviazione a 5 kHz, quindi come fosse un portatile amatoriale, non senti nulla, senti solo splatter. Sono strettissimi di banda, di ricezione. Sembra nemmeno 2 kHz e mezzo, sembrano quasi un kHz di larghezza di banda. Capito? Eia, avanti Luca, mi pare che è lui. Ciao a tutti, ciao Marco. Se ti prendi l'883 invece ti cantano anche la canzone. Ciao a tutti. Gli 883, sì, ciao Luca. Esistono ancora gli 883? Sì, uno e buco. Si sono separati. E quindi vedi, questi vanno bene. Qua sotto ci hanno scritto, Antonio, dove c'è il prezzo? Ci hanno scritto Walkie Talkies copia, non coppia, copia. Vabbè che sono la copia della copia della copia. Ecco, questi sono i Brondi, siamo dei Brondi, di cui non ricordo il modello, erano i primi, credo i primi Brondi usciti 25 anni fa, e avevano questa forma qui, avevano il tastino PTT centrale, questa è una cosa che ricordo, peraltro era anche abbastanza comodo. E poi naturalmente i Brondi avevano una colorazione più accattivante, c'era una mascherina anche con un profilo un pochino argentato, eccetera. Ok, Nicola vai per i saluti a Luca. E a voi, ti ricevo. Cerca di aumentare un po' per Antonello. Io già ti sento, io a voi. Per Antonello dovresti aumentare un po', infatti. Sollevala un po', cambia antenna, io non so che antenna usi. Vai Antonio. Aspetta, Antonio sarà andato un attimino a bagnarsi il becco, là, così faccio io. Sto sempre bevendo acqua e sono sempre con la bottiglia d'acqua e in bagno, ho capito? Bottiglia d'acqua in bagno. controllare la glicemia e dovrei fare tanti controlli, Nico, vista l'età. Tanti controlli, check-up, non ketchup, come aveva detto qualcuno, dice fate il ketchup, ho detto sì, è la salsa rosa. Dovrei fare i check-up vari, nei soliti punti chiave, no? Per i maschietti, però non è giugana. Guarda, candomezzi borsa nei buon viaggio. Ah Marco, mi piace solo fare la visita rettale, boh. Proprio quello. Guarda, meglio quella che altre cose comunque, perché quando invece devono controllare, no, non ne parliamo adesso, perché mi sento già male. No, cosa volevo dire? No Nico, sai cos'è? Siccome ho avuto una patologia, si chiama diabete insipido, non so, una cosa del genere, un problema all'ipofisi, per cui una volta rimossa quella è tutto concatenato, quindi mi è rimasta questa sete aggiuntiva in più. A me piaceva già bere comunque acqua, però mi è rimasta un po' questa sete aggiuntiva in più, che un po' ce l'ho anche come vezzo, dai, come vizio, dai. Poi parlando mi si asciuga molto la bocca. Dai, zitto, Magone. Antonè, riprendi, dai. Dai, zitto, Magone. A me. Ma chi è? Lo sento un break anche, avanti. Ah, mi avete sentito? Buonasera a tutti. Perché avevate parlato assieme a Antonello e io non capivo, ho detto, ma chi ce l'ha? Ciao già. Ieri eravamo tutta la sera in radio, un delirio qua, una cosa, e sono entrati un po' tutti a salutare. Oggi vediamo, però oggi non ci sto come ieri e oggi mi voglio conservare. Avanti, allora, Luca Flipper, Nicola Lupo Grigio, sempre importabile un po', e Pomponi, vabbè lo conosciamo, no? Quindi, avanti Nicola, per Gianni Rupirun. Ciao Lupo Grigio, un piacere sentirti, dai. No, va bene, grazie a Dio va bene, dai, per andare peggio è meglio così. E c'è tu che ti sei assentato per un bel po', non so il perché, ma non ti ho più sentito, poi mi dirai. Scappa, ma poi quell'alimentatore là l'avevi messo in funzione? Scappa, va bene, dai. Andare. E stai uscendo con quello adesso, con l'alimentatore? Ah, scappa. Ma quel Midland non l'hai più usato? Sono qua, aspetta. Stavo provando il baracchino, cioè è venuto Giuseppe. Stavo trovando le baracchino, non sono usciva in televisione, adesso stavo uscendo. Ciao Gianni, ben ascoltato. Salutoni, comunque c'è salutoni anche a Giuseppe Leoncino che è arrivato adesso qua. Ciao, comunque stavo parlando Lupo Grigio, forse tu non l'hai sentito, dai. Va bene Lupo Grigio, poi ti rilancio il mic, avanti Luca Pippa. Ciao Gianni, avanti Antonio. Come sta facendo di radio con questo Zodiac 54? Va bene. Ok, meglio così. Riprendete da Marco. Marone ti aveva detto Giuseppe Leoncino che è qui. Ah, Marco, se è partito in cosa? Come? No, aspetta, no, non sono qua, che non so cosa, devo attaccare la lavatrice, devo fare varie cosettine, quindi magari per un po' rimango in bianco. E devo mettere via anche l'alimentatore, a proposito, che avevo tolto dall'armadietto il famoso alimentatore, quello per luci LED, quello che hanno un po' tutti, quello piatto, per farlo funzionare. Adesso lo stavo lasciando alla polvere, per lasciarlo alla polvere lo rimetto dov'era, funziona, ma c'è così tanti amperi che non so dove, che farne. Quello va bene se c'è lineeretti spinti a 12 volt, cosa che io non ho. Va bene, riprendi Gianni, bianco per me. Se non sai cosa fare dalla me. Avanti a chi tocca. Ah, brucia se non si brucia. Soffia e vedrai che se la prende. Ma è caldo, anche il telefonino fa scaldare tutto quanto. Va bene, Lupo Grigio, dai, vedi tu. Fatti sentire, dai, siete andati a mettere la firma per contro le centrali uniche? Sono qua, aspetta che c'è il cane che sta parlando. Aspetta già, mi sto togliendo quell'alimentatore lì. No, perché non voglio che prenda polvere, per quanto non lo usi. Era per vedere se era tutto a posto. D'altronde era in scatola, cavolo. ti volevo chiedere già, siccome ieri abbiamo provato dopo tanto il Max con 7, quel kit valigetta, e usciva di un bene, e io ricordavo invece che usciva male, e sai perché? Perché usate in batterie, probabilmente erano mezze scariche e usciva tutto male, saturo, invece è attaccato all'alimentatore, era un bisuglie. Ti volevo chiedere, che marca modello era quella tuo kit emergenza che poi avevi dato? Era della Intec. Ah, non Midland, era della Intec. Ma come mai avevi deciso di darlo? Perché ce l'avevo 10 anni fermo sopra il mobile e avevo paura che si guastasse, capito? Però date, era un bel bello, io andavo a Plattamona con l'antennino su, lo mettevo sulla capota della macchina e mi sentivano sino a Plattamona. Io tornando da Porto Torres, lo mettevo, tornando dal mare, magari diciamo che mi sentivano già all'altezza di Liglioni, ecco, allora da Sassari mi copiavano a quell'altezza lì, perché l'antennino comunque era scarso, molto molto corto, ecco. Però funzionava bene, addirittura le basette ne avevo due, perché avevo comprato una basetta gemella che ha la stessa forma, però anziché l'antenino di metallo stilo c'era l'antenino in gomma lungo 25 cm e funzionano tutte e due bene, sono abbastanza tarate, diciamo, tutte e due, e quindi vabbè, una volta provato poi l'ho rimesso via perché è più pratico, vabbè, il veicolare, quello mattoncino da tenere in mano, insomma. Ma infatti, ma almeno di più si poteva togliere l'antenna e metterla nel baracchino, proprio nel mattoncino. Invece il mio senza l'antenna esterna non funzionava e non si poteva mettere, manco, non c'era manco l'attacco per l'antenna. Ah, ecco, non era, come detto io, bivalente, cioè che svitavi dalla base e lo svitavi sul portatile, era solo praticamente con base, e quello te lo limitava molto, quindi non avevi una custodia portabatterie nemmeno. Sì, sì, quello c'era, però il problema era quello che non c'era l'attacco dell'antenna, l'antenna sì c'era l'attacco, però era jack femmina. Capito, si poteva attaccare col jack femmina, ma non quel tipo di antenna lì, dovevi fartelo tu l'attacco. Hai capito com'era? L'antenna che c'era lì lo si poteva attaccare, mentre invece quello che è più il Max, l'ho avuto anche quello, e si poteva svitare dalla base e mettere nell'apparecchio. Sì, infatti era fatto bene, l'avevano studiata bene, era bello, io l'avevo visto a casa di Antonello nel lontano 1984 e me ne ero innamorato di quel portatile, e poi vabbè l'aveva preso mamma, io ero piccolino, non potevo pagare ben 200.000 lire nell'85, ed è completo di tutto, tutto quanto c'è. Va bene, chi ci è rimasto adesso da tirare? Luca Fiber, sì, dai, che così faccio queste cose. Io mi ricordo che l'ho preso all'emiciclo, adesso non mi ricordo come si chiamava quel negozio, cioè se poi ce l'aveva anche via Roma. L'ho preso lì all'emiciclo e stavano chiudendo e me l'ha dato 100 euro. 100.000. Ah, ma chiudendo per cessazione attività? Sì, anche noi l'abbiamo preso all'emiciclo, nell'85, fine 85, da Cineradio, ecco. Esatto, Cineradio. Sì, lì avevo comprato anche la piastra per il giradischi. E l'avevo comprato di quelle professionali, con la frizione, eccetera. E mi ha detto, guarda, prendi questo che è il migliore che abbiamo, costerà qualcosa in più. Allora l'avevo pagato 350.000 lire. Io ho già, mi ricordo sempre la faccia che ha fatto il tizio di Cineradio, no? Allora lui aveva questo bel radione della Philips Radio, doppia cassetta, forse anche anche il lettore CD aveva. Quindi c'era doppia cassetta, lettore CD radio della Philips, era carino, non era troppo costoso, era il modello intermedio, e lui lo vendeva a 413 euro. Che io ricordi, mi ricordo questa cifra, 4,13, l'avevo vista in vetrina, no? E me lo stavo guardando, e ho detto, abbiamo questo modello, le interessa? Ho detto, non sa perché lo stavo guardando, ho detto, la verità, io questo identico l'ho preso da Auchan, e le dirò che l'ho pagato, mi pare, 2,25, comunque sotto i 2,50 l'avevo pagato, e non mi dimenticherò mai la faccia stravolta che ha fatto il tipo, E aveva detto qualcosa, sì, ma dice, ma questa è veramente concorrenza sleale, cioè ci è rimasto male. Ah, tu perché l'hai detto? L'ho visto dall'altra parte, pure che costava meno, appunto. Tutto lì. E vabbè. Pure io non ho quei pezzi che vuole, Ocean può fare pezzi diversi perché prende la cosa a stock e la fanno pagare di meno, invece loro prendono pochi pezzi. Sì, sì, e poi la stessa cosa che ha detto lui. No, ma io gli avevo detto, ma è sicuro, è lo stesso modello, abbiamo guardato la sigla, era proprio identico, lui 413 euro, scusa, me la dire, io do Shan sotto i 250 comunque, e dice, sì, è così, cioè io ne posso ordinare, ma nemmeno 10 pezzi, ne posso ordinare 3-4 pezzi, loro ne ordinano 1000 pezzi solo per una filiale e fanno dei prezzi incredibili, però dice, questo dice, è a livello di concorrenza sleale, infatti purtroppo questi negozi sono stati affossati dalla grande distribuzione. Ma noi guardiamo sempre il nostro interesse. Se noi pagavano un posto di meno, andiamo dove lo pagavamo meno. Per lo stesso modello, mica aveva pagato 200 euro in più. Stiamo scherzando. Luca, ci sei. Avanti, arrivo. Ti morti, vediamo se Nicola c'è ancora. Nicola? Nicola, lo vuoi radiatore? Sì, ci vorrebbe una ventolina messa a elastico. Come faccio io col... mi ha capito. Certo, giustamente già, io da ragazzo, avevo 20 anni, 21, io non l'avrei mai comprato oltre 400.000 lire, non potevo. Invece 200 e spiccioli, quant'era, me lo sono riuscito a regalare da Ocean. E infatti mi era dispiaciuto per Cineradio, perché io quando ero bambino e ragazzivo andavo a sbavare, a leccare le vetrine, tutte le meraviglie che aveva, e ne ho comprate roba. Anche io, in via Roma, andavo al riciclo, andavo sempre a guardare le radio che aveva. Allora, quello che c'era in via Roma, c'era un tipo in occhiali, ricordo male io, poi ti dico perché non sono più andato. Erano in due, uno giovane e uno un po' più anziano. Io l'ho visto sempre dove c'era quello più giovane. No, sempre che te l'ho chiesto, perché quello con gli occhiali di via Roma si chiamava, mi pare, 33 Cineradio, quello di via Roma. Io un giorno vado lì, tu sai che avevo la passione di videoregistratori e queste cose, ho chiesto, vorrei una presa SCART 21 poli completa, con tutti i poli collegati, cioè ci devono essere i cavi ognuno per ogni piedino saldati, che mi serviva tutto, mi serviva nella corrente di commutazione, in modo che tu, come accendevi il videoregistratore, il televisore dai canali normali passava in AV, audio video, per esempio, no, un esempio terra terra. E già non mi funzionava questa cosa qui, poi vado a controllare, apro la SCART, che tanto era una vite di plastica, e dentro c'erano, nonostante io avessi chiesto espressamente una presa SCART completa a 21 poli, però collegati i poli, c'era solo l'audio e il video, cioè le cose base, e ero tornato e le avevo detto, e ma sano io... Insomma, alla fine hanno sempre ragione loro, cioè, come dire, io non dice, non è che apro i cavi a vedere se sono saldati, non c'ero più tornato, non mi era piaciuta la risposta, ecco. Ma uno deve essere professionale, deve sapere cosa sta vendendo. E forse sai cos'è, magari il cavo non era di marca, magari l'avevo pagato un po' troppo poco, ma la dovevo fiaggare. Invece, per esempio, quando c'era Scarpa, che c'era Giampaolo, quel ragazzo che ne sapeva un bel, quando gli chiedevo queste informazioni, dice sì, vediamo subito, te la svettava, controllava, dice sì, guarda, tutto collegato, audio, video, CVBS, corrente di commutazione, schermature, tutto, era un drago. Anche Scarpa ha fatto epoca qua, adesso quel locale è chiuso da anni, e poi era lunghissimo, se tu l'hai visto il locale di Scarpa, lì all'angolo con via Savoia, via Prunizzetta, era lunghissimo, e sembrava sommergibile, cioè lungo, era roba di... adesso nei metri non te lo so dire, comunque molto molto profondo, sembrava una specie di rifugio antiatomico. Ma lì ha chiuso adesso? Già è un giorno che ha chiuso Scarpa, da tanti anni, anzi è stato un peccato, però c'è, alla fine non dove vai, con con Euronics che ti dà prezzi, televisori già getta, hai visto? Anche questi dei market, che vai da coso, un 32 pollici di 200, 199 euro, manco a dire 200. Poi sì, sono usagetta, non poteva più competere né lui né tutti gli altri, capito? Anche con questa tecnologia a basso costo, per chi la vuole, e poi per chi ha soldi già c'è roba pregiata. E gli ho comprato diverse volte di da scarpa, sì, ho comprato diverse cose, anche mia suocera si serviva lì, ha comprato lavatrici, televisori, un sacco di roba. Poi ci lavorava un mio parente, là. Italo, non so se lo conoscevi, quello robusto alto. Già, fare mente locale, i nomi non me li ricordo. Io ricordo molto Giampaolo, ci avevamo confidenza e sapevamo un bel di cose, cioè come chiedevi la roba. Adesso invece, per esempio, sì, da Troni, da tutti i negozi grandi, hanno questi commessi giovani, però gli chiedono una cosa e si guardano cosa c'è scritto sulla scatola, ah, vediamo, non so. Io c'è volte le chiedevo poi cose strane, tipo che a me all'epoca mi serviva un lettore di VX che avesse l'opzione quarter pixel, in modo da leggere quei film che erano codificati con quella specie di opzione particolare, se era quella quarter pixel, lì non sapevano neanche di cosa stessi parlando, quindi ho detto vabbè, lasciamo stare, capito? Invece queste cose quel Giampaolo lì di scarpa te le avrebbe saputo dire, però il negozio era bello che chiuso. E scarpa aveva anche aperto via Valdabbasso, poi era andato male il negozio, dove c'è il casino adesso. Ehi, di fronte a Pompon, Zumi. Sì, lì c'era il videopoker, purtroppo, e lì è stato un errore. Perché il gestore dice troppe spese, beh, il risultato che ha trasferito le macchine in questa orrenda, questo stanzone brutto, angusto, tutto con macchine ammassate una sull'altra, tutte molte rotte, senza più il servizio bar, senza il bagno, senza il doppio piano, sala fumatori, niente, dalle stelle alle stalle. E quindi però convinto di risparmiare, adesso non ci va nessuno. Sai dove si era trasferito? Al vialetto, lì alla base del vialetto. Conoscevo un ragazzo o due che ci lavoravano. E quello alla fine non ha risparmiato niente, perché è sempre biondo, non c'è più il cambio, non c'era più, mi pare, addirittura il cambio monete. Guarda, alle stelle, alle stalle. Io già non ci sono mai andato a giocare a questi giochi qua, non mi piace, è una cosa proprio contro di me. Io con i soldi in tasca ho sempre vinto. Ah, manco io accompagnavo Coso, il figlio di Vela 3, accompagnavo lui, ci pigliavamo il caffè, chiacchieravi, poi lui giocava, vabbè, io mi giravo i pollici, però già c'erano delle belle poltroncine, io mi strabaccavo lì, mi guardavo lo smartphone, intanto mi abbioccavo pure, e vabbè, peccato. Poi non so se quel locale l'abbiano recuperato o se sia vuoto tuttora. E lì ci va gente che gioca, capito? Era un casino prima, c'era di tutto e di più. Lì vedevi cose brutte, anche gente spendersi pensioni appena ritirate o stipendi e andandosene con le mani in testa alle persone. Quello è troppo, quello è pericoloso. E io ho visto una signora che una volta in un bar si è spesa tutta la pensione e si è buttata a bini. Dopo c'è andato un ragazzo, ha messo poche monete e si è abitato di tutto. Non finiva più di scelta. Sì, ecco, anche quello. Cioè, vedevi gente che si spendeva tutta la pensione, anche signori vecchi e non anziani. Si giocavano a tutto, non vincevano niente, oppure gente così di mezza età. Poi arrivava magari il ragazzetto che cominciava 100 euro, 100 euro, alla fine si andava con 800 euro e magari erano quelli della pensione o dello stipendio del tizio, quelli con le mani in testa che però non potevano fare niente, a meno che non lo rapinassero all'uscita di notte. Gesù. Ma vediamo se a Nicola gli si è raffreddato il portatile. Poi Nicola non accende più il portatile, quella è stata la scusa per farlo spegnere. Allora via, e vabbè. E comunque Marco, se devi chiudere io chiudo, vai. voglio andare a mettere la firma per le centrali uniche, contro le centrali uniche, che c'è oggi il banchetto, a chi può interessare, sino alle 8, Piazza Castello. Oh, per quella storia lì sì, perché cioè, li vogliono mettere anche in zone belle, cioè, non è che noi abbiamo molte zone belle, però io non mi pronuncio più, non firmo più niente, non, io non esisto né per la politica, né non esisto, non ne faccio più né firme né cose né petizioni, non voglio sapere niente, va bene, e io che ci rimasto, se non chiudiamo tutti, che io vado da va. Antonello sì, ci sei, niente, Nicola niente, Luca Filippo stava facendo cosa, Luca sì, e vabbè oggi era più tardi, ieri siamo stati già tipo dalle 2:30 a 3 fino alle 6:30, tutta la sera così, come stiamo parlando, al tamburo battente, al fine ero distrutto. Io non sono le 7:20, a cena non c'era nessuno. Eravamo andati via. Perché sai, Antonello stava provando un mic presso, stavo lavando i piatti, tipo dopo le 2:30, giù di lì. Ho sentito fischiare, tu vediamo cosa c'è. E lì hai attaccato il bottone, è entrato anche Natalino, un po' si riposava perché è sempre a dolore, un po' però anche due parole dette anche lui, quindi Luca Flipper, Nicola non mi ricordo se ieri c'era. Comunque varie persone, dai. Va bene già, io devo fare questa roba, se no mi sarei trattenuto un pochinino di più. Intanto sono spariti tutti poi senza preavviso, quindi a parte, va bene, Nicola ha avvertito. Ci sentiamo già. Ciao, buon proseguimento di serata e buon tutto. Ciao, altrettanto Marco. Buona serata anche a te. Giuseppe, poi ho controllato il mio tornado e ho capito cosa devo cambiare per l'FM. C'è un trimmer, era imballato, adesso gliel'ho passato a Giuseppe col baracchino, poi uno di questi giorni prendo e li cambio il trimmer. Eia, bene, ma c'è ancora andato via, perché poi Antonio sono dovuto andare via. Non ho fatto in tempo a salutare nemmeno. Eia, sono tutti via tutti, ho visto. Sì, era entrato Gianni, però avevano chiuso tutti. Nicola c'aveva il portatile bollente, quando cominciano a scaldare, le stazionarie, l'aveva fatto anche a me, a un Intec, ha scaldato sempre di più, proprio è diventato bollente, poi si è bruciato il finale perché, sai, le antenne portatili comunque non sono mai uno e uno, anzi ben altro. Antonio, sono entrato solo a salutare perché sto trafficando in bagno con biancheria, ok? Ci sentiamo quando capita. E buona serata. Via, va bene, ok, dai, ci sentiamo o dopo o domani. Ok, buon lavoro di biancheria. Via, ma manco la lavassi a mano, già c'è la lavatrice. Però va settata in un modo che dico io, ok, va bene, ciao, saluta in casa, ciao. Ciao anche a te. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segnale 9, era di 5. Non ho capito. Va bene, senti bene. Ti sento bene. Tu qua sei 9, potevo alzare 5, perfetto. Vabbè, ok. Una bomba secca. Sì. Quindi ci sono della scuola da 20 stelle. Vabbè, una buona. Che è asentato. Appena.